si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno a tutti, buona domenica. Staremo insieme fino alle 11 come ogni domenica. I nostri contatti per cominciare da subito a interagire con noi in tempo reale, prima di dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi con i nostri approfondimenti, le buone notizie che metteremo al vaglio anche degli interventi in diretta degli ascoltatori. La pagina Facebook si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è chiocciola si può fare 24. Parleremo dopo appunto una piccola rassegna stampa delle novità che attendono i ristoranti in tutta Italia, ma in tutta Europa. L'obbligo di esporre dal 13 dicembre nel menù tutte le componenti allergeniche, dal lattosio al glutine, quelle cose che mettono a rischio insomma la salute di 2 milioni di persone in Italia, 20 milioni di persone allergiche in Europa. Un aggravio però per i ristoranti, che dovranno avere dei menù dettagliatissimi, e insomma c'è la Confcommercio che è già sul piede di guerra per questo. Cercheremo di capire le ragioni di tutto più tardi. Adesso, come detto, iniziamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora c'è prima di tutto la risposta di Matteo Renzi alle parole di Berlusconi di ieri, che aveva lanciato la corsa al Quirinale, e c'è un bello stop. Titola il Corriere della Sera: Quirinale, Renzi frena Berlusconi, sia un Presidente della Repubblica che rappresenti tutti, no alla richiesta di Berlusconi di anteporre l'accordo sul Quirinale alle riforme, cioè all'Italicum e alla riforma del Senato. Renzi ribadisce anzi l'intenzione di andare avanti da soli in caso di rottura con il centrodestra. Invece su Repubblica c'è un'intervista di Renzi, che tra poco vedremo, nella quale si ribadisce e anzi si aggiungono con aspetti, diciamo elementi, dettagli a questo concetto. Sul Corriere c'è anche il titolo Padoan, il ministro dell'economia, che dice: crescita, l'Unione Europea ci ascolta, le tasse scenderanno ancora. C'è un'intervista a Padoan, la vediamo tra un attimo, nella quale il ministro dell'economia insomma rinforza concetti già espressi sin qua. La fotonotizia invece è dedicata al Papa, che si inchina di fronte al patriarca di Istanbul, di Costantinopoli. L'incontro con Bartolomeo in Turchia, il Papa e lo storico inchino: vi chiedo di benedire me e la Chiesa di Roma. Il patriarca ortodosso di Costantinopoli posa una mano sulla testa di Francesco baciandola, e questo è un inchino storico, il Papa che si inchina di fronte al patriarca. Dicevamo però il Corriere che intervista il ministro dell'economia, non che ci sia annunci o cose nuovissime, però insomma Padoan ribadisce che c'è una manovra economica con 18 miliardi di euro di tagli finanziati, tasse finanziati con tagli alla spesa, quindi meno tasse, meno spesa pubblica, anche se qualcuno ha fatto i conti e insomma non sarebbero proprio 18 miliardi di euro di tasse in meno, però tant'è, questo è il concetto espresso dal ministro Padoan, che dice: la direzione che abbiamo intrapreso è quella di un taglio delle tasse finanziato da un taglio della spesa. Invita all'ottimismo, il governo si deve preoccupare anche delle aspettative delle persone, che sono importanti. Ecco perché Padoan non vuole minimizzare la situazione, ma vuol guardare anche in avanti. E poi dice, a proposito dell'Europa: vorrei ricordare che quando a luglio entrammo in carica col semestre italiano, mettemmo l'accento sulla nostra azione dicendo che in Europa si doveva iniziare a parlare di crescita, di occupazione, di investimenti. Ci fu chi sorrise: grazie all'Italia oggi questi sono temi al centro dell'intera Europa. E non solo, si è avviato lo scambio automatico di informazioni per evitare l'evasione, il contrasto all'elusione fiscale, ma soprattutto oggi si parla finalmente di investimenti con il piano Juncker da 300 miliardi, che in realtà sono 20, e il resto ce li mettono i privati, in parte gli stati. Il Corriere, che si occupa anche di ricordarci il ritorno, diciamo, pubblico di Berlusconi, che ieri per una delle manifestazioni milanesi del No Tax Day si è fatto vivo. con le proposte, diciamo, della, appunto, di diminuire la tassa al 20%, una tassa unica, proposta che ricalca quella della Lega, una moneta alternativa da affiancare all'euro. Berlusconi sceglie, dice il Corriere, per il suo rientro pubblico Piazza San Fedele, a ridosso di Palazzo Marino, sede del comune governato dal nemico Pisapia. Circa 500 fedelissimi, quanto basta per lanciare il guanto di sfida. Gli avvocati mi impongono di non parlare, ma ho deciso di rischiare, di ritornare in piazza da questo momento, di dire la verità vera, incominciando da qui. Riferimento chiaro all'avvertimento del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva imposto di non attaccare più i giudici, pena il ritiro dell'affidamento ai servizi sociali. E questo per quanto riguarda Berlusconi. Insomma, tensioni anche in casa Movimento 5 Stelle, è inutile dirlo. Se ne occupa Repubblica di parlarcene. Grillo, pronte altre espulsioni, il titolo principale. Una nuova ondata di espulsioni in Parlamento, voci di una possibile cacciata addirittura del sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Chissà quanti ne resteranno nel Movimento 5 Stelle a forza di espulsioni. Ipotesi che nella lista nera possa finire anche il primo cittadino di Livorno, Nogarin. E va bene, andiamo avanti così. Una lettera d'addio al Senato di Giuseppe Vacciano, che è un fedelissimo stato fino adesso, nonché tesoriere del gruppo, quindi forse se ne va anche lui, mentre rientrano le dimissioni di altri due ortodossi deputati, Daniele Pesco e Dino Alberti. Il tutto è quello che, di cui si sarebbe discusso durante una assemblea infuocata durata 4 ore. Ma dicevamo, l'intervista di Renzi a Repubblica, molto lunga, insomma, non è che anche in questo caso ci siano grosse novità. Le novità sono due. Una riguarda l'Ilva. A Taranto, dice Renzi, stiamo valutando di intervenire con un soggetto pubblico, rimettere in sesto l'azienda per 2 o 3 anni, difendere l'occupazione, tutelare l'ambiente e poi rilanciarla sul mercato. Non ci sono dogmi ideologici da questo punto di vista, non sono un fautore dell'ideologia neoliberista, quindi insomma possibile l'intervento pubblico sull'Ilva. Renzi, che era già nell'aria, lo conferma. Ci sono 3 ipotesi: l'acquisizione da parte di gruppi esteri, da parte di italiani e poi l'intervento pubblico, perché evidentemente nei gruppi esteri, nei gruppi italiani sono fondamentalmente interessati ad accollarsi le difficoltà, i debiti, dover tutelare l'ambiente, dover avere a che fare con i sindacati per una vicenda così intricata come l'Ilva. E allora ecco che arriva Pantalone, ci arriva lo Stato a risolvere la questione. E va bene, insomma, perché è una possibilità anche questa. Molti economisti, lo ricorda anche il giornalista durante questa intervista a Renzi, sostengono che in questa fase di crisi l'intervento pubblico sia auspicabile, perché è l'unico in grado di far ripartire l'economia. Poi la risposta a Berlusconi. Al Corriere Berlusconi ha detto che prima si concorda chi si elegge al Quirinale e poi si approva l'Italicum. Non esiste, risposta secca di Renzi. L'Italicum è in aula a dicembre. Lui si è impegnato con noi a dire sì al pacchetto con la riforma costituzionale entro gennaio. Io resto a quel patto. Dice, ma Berlusconi spesso cambia idea, gli ricorda Claudio Tito. Io no, risponde Renzi. Nel frattempo le ha fatto sapere che per il Quirinale vorrebbe Amato. Io ho un unico nome, Giorgio Napolitano. Non apro una discussione finché il capo dello Stato è al suo posto. I nomi si fanno per sostenerli o per bruciarli. Va bene, ma poiché il problema si aprirà, lei pensa di indicare almeno un metodo? È bene che il Presidente della Repubblica si elegga con la maggioranza più ampia possibile. E dico possibile. Che cosa vuol dire questo? E dico possibile. Vuol dire possibile con chi ci sta. E quindi se ci sta Berlusconi, bene. Se no, magari ci sta qualcun altro. Il messaggio trasversale è, sia credo al Movimento 5 Stelle, sia credo allo stesso Berlusconi. Attento a non forzare la mano, perché insomma io posso girarmi anche dall'altra parte. La prima pagina, per certi aspetti storici, della Padania, che dice grazie perché da oggi saluta le edicole e smette di essere pubblicata. Grazie, scrive Matteo Salvini in editoriale, è il titolo più giusto per una giornata come quella di oggi, perché io su questo giornale ho cominciato a scrivere nel 97. Quel giovane praticante oggi è segretario della Lega Nord. Quello che mi fa girare le palle, scusate, questo è testuale che dice Salvini, poteva usare un'altra espressione ma usa questa, è che in un momento di grande passione, di grande rilancio del movimento, siamo costretti ad uscire dalle edicole. È stata una precisa scelta del governo e di Renzi azzerare o quasi i contributi per i giornali, soprattutto quelli piccoli e locali, per mettere il bavaglio alle voci scomode. che sia allora un arrivederci e non un addio, già perché di chiusure di giornali, vedi l'Unità, giornali di partito o ex di partito, ne abbiamo viste molte, poi escono dalla porta, rientrano dalla finestra. La Stampa, e chiudiamo, propone un interessante ricalcolo delle stime sulla disoccupazione proposte dall'Istat e dal governo. Se ne occupa Luca Ricolfi. È una scelta strana questa della Stampa, che dice: disoccupazione mai così alta, una rilettura dell'ultima statistica Istat sul numero dei posti di lavoro al netto della cassa integrazione. Il 13,2% non è il dato peggiore dal 1977, no signori, ma di tutta la nostra storia, a differenza di quello che si è incaricato di dire il governo e forse anche l'Istat. Insomma, leggete questa analisi di Ricolfi se volete fare le pulci ai dati sulla disoccupazione. Il Sole 24 Ore: fiducia sulla stabilità, via libera della Camera, perché il governo incassa alla Camera, questa è la notizia, il primo sì al DDL di stabilità con 3 voti di fiducia sui 3 articoli in cui è stato suddiviso il testo. Oggi il voto finale, la partita si sposta al Senato, dove restano da risolvere i nodi più spinosi: tassa locale sulla casa e tagli alle regioni. Ci fermiamo un secondo, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori. Non ho detto niente sulle sigle nuove che avete sentito, perché insomma sono ancora sigle sperimentali. Sospendiamo il giudizio e poi vedremo. Salutiamo Armando Massarenti, curatore responsabile e direttore del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore. Ciao Armando. Ciao, buona domenica a tutti. Eccoci qua, è il momento insomma di chiudere gli occhi e sognare. Facci sognare, di cosa vi occupate oggi? Ma dunque, tantissime cose, un numero veramente molto ricco. Parto, guarda, dalla nostra rubrichina L'Aforisma, curata da Gino Ruozzi, perché è sempre molto sagace. La vita è breve e tuttavia ci si annoia, Jules Renard. Ecco. Allora, per non annoiarsi invece bisogna proprio sfogliare questo numero della domenica. Altra forma breve, sapete che io amo molto le forme brevi, anche se poi in realtà la maggior parte degli articoli della domenica sono degli approfondimenti anche piuttosto corposi. Altra forma breve, questo davvero è un palindromo dei più belli degli ultimi tempi, l'altra rubrichina, Marco Buratti, appunto né capo né coda, commento al palindromo: Renzi e Salvini incoronati dall'astensionismo. E poi il vero e proprio palindromo, cioè una frase che si legge sia da destra che da sinistra, dice: ai Mattei la tiara, cara Italietta mia. Ecco, questo è un gioco di parole molto molto virtuosistico, perché sì, non è facile fare queste cose. Ecco, poi insomma, di virtuosismo e virtuosismo abbiamo vari pezzi di grande levatura. Abbiamo Massimo Firpo con una apertura molto bella di un libro uscito, che esce in questi giorni, da Per Einaudi, di Elena Bonora, Aspettando l'imperatore, principi italiani tra il Papa e Carlo V, con un titolo un po' azzardato, Ad avvenì Carlo V abbiamo fatto, perché un po' ricorda Ad avvenì Baffone, e proprio questa è la storia che racconta Firpo, di come a un certo punto quasi tutti i principi italiani sognarono di essere salvati in qualche maniera dall'imperatore che era diventato imperatore giovanissimo, mettendosi nei diversi regni d'Europa. Una storia, un articolo molto denso, molto bello, di grande approfondimento da parte di Massimo Firpo. Sempre dal proposito di storia, c'è una vera e propria denuncia da parte di Sergio Luppato. La storia è una maionese impazzita, dove ci mette in guardia da tutta una serie di rappresentazioni un po' troppo approssimative, in cui si mescola narrativa e storia vera e propria, dove appunto poi si perde un po' il gusto dei fatti. Il gusto dei fatti lo si perde anche, devo dire, in ciò che denuncio nella mia piccola rubrica Filosofia Minima, terremoti, nuvole, virus e giudici. il titolo, dove ricordo che però per una volta abbiamo avuto ragione, cioè io ho intitolato a marzo L'Aquila, riferendomi alla sentenza che aveva condannato sei scienziati, L'Aquila di logica sentenza, e in effetti poi in appello sappiamo che è stato certo che il fatto non sussiste. E io faccio un ragionamento proprio su, su come troppo spesso i magistrati non seguono la logica, anche le vicende dei virus e degli vaccini di questi giorni ce lo dimostrano. Poi ci sono altre casi, abbiamo un Primo Levi che parla di animali con tante piccole composizioni, questo ce ne parla Domenico Scarpa. Abbiamo un appello perché chiude non chiudono solo i giornali, ma chiude anche una rivista molto bella e storica, la rivista Poesia di Nicola Crocetti, e Nicola Gardini ci fa un appello per chiedere a qualche benefattore, qualche filantropo che possa aiutare a continuare a farla vivere. A questo proposito, Armando, mi interessa anche sapere la tua opinione su questo. Tu che sei un uomo sicuramente liberale, aperto, ma anche attento alle esigenze delle voci del pluralismo e quindi delle voci culturali e sociali. Cosa ne pensi della questione dei finanziamenti ai giornali di partito, alla questione che diceva Salvini, il fatto che si vogliono chiudere delle voci e che chiudono in effetti dei giornali? Ma insomma, il finanziamento dei giornali è un tema molto delicato. Io, pro domo mia, nel senso, preferirei che si pensasse anche a queste piccole realtà, perché poi la cultura è fatta di tante cose, no? È fatta sì dell'informazione, che però comunque ci viene garantita da un sistema già molto pluralistico, è fatta anche però appunto di cultura. Il tema è delicato perché io non è che sia proprio favorevolissimo degli apporti diretti da parte dello Stato, anche sono abbastanza contrario, mentre invece la filantropia privata è chiaramente un'altra cosa, su cui noi stiamo battendo da molto tempo, che riguarda sia appunto la cultura letteraria, in questo caso la poesia, ma per esempio qualche settimana fa abbiamo fatto una pagina intera su come siamo carenti nella filantropia che riguarda la scienza, no? Che è l'altro settore importantissimo, dove c'è spesso bisogno, molto bisogno, come no? C'è bisogno per esempio per le malattie rare, ecco, dove lo Stato o le grandi industrie farmaceutiche non hanno un interesse ad intervenire in maniera precisa. Ecco, io invece il ruolo dello Stato lo vedrei più in una pagina che troviamo più avanti, dove ho rilanciato, si parla di scuola, insomma, io rilancio questa proposta in cui io credo fermamissimamente, e Elena Cattaneo, la senatrice a vita, e il nostro collaboratore illogico Ermanno Bencivenga fanno due bellissimi ragionamenti sulla logica, insegnare la logica, titolo Andare a scuola senza logica, perché nel pezzo soprattutto di Bencivenga ci si fa un'idea molto chiara di come siamo messi male dal punto di vista del ragionamento conseguenziale e inferenziale, e non bisogna spaventarsi, cioè non è che sia così difficile imparare la logica e insegnarla, così come non è difficile insegnare le teorie delle probabilità, come ci spiega invece Roberto Casati. E poi abbiamo appunto il rilancio dell'appello da parte di Elena Cattaneo, che si chiede appunto se un paese possa crescere se non parte proprio dalla possibilità delle persone, dei cittadini, di pensare con la propria testa in maniera rigorosa. 8.56, sì, lo so che tu potresti andare avanti chissà per quanto, insomma il domenicale sono tante pagine, sono tante cose interessanti, quindi bisogna andare in edicola e fare uno sforzo, insomma farsi avanti, anche se non sono ancora le 9, però le edicole sono già aperte. Armando, ci sentiamo domenica prossima, grazie per essere stato con noi, ciao. Grazie, invece cari ascoltatori, noi ci risentiamo dopo il giornale radio, apriamo anche il numero verde per i vostri interventi, 800 24 00 24, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, cominciate da subito se volete a prenotare il vostro intervento in diretta per commentare quello che avete sentito, cioè la rassegna stampa, i fatti insomma di questa settimana, di questi giorni, e poi anche per commentare le buone notizie di cui vi parleremo tra poco, e per giocare con noi il primo indizio dopo la pubblicità, dopo il traffico, sul personaggio misterioso che andiamo cercando come ogni domenica, e mettiamo in palio i biglietti per la mostra di Chagall a Milano e anche il prestigioso catalogo. 800 24 00 24, ci sentiamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. E di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Ciao a tutti cari ascoltatori, 800 24 00 24, cominciate subito a prenotare il vostro intervento, tra poco insomma un po' di notizie della settimana, un po' di buone notizie che mettiamo al vaglio degli ascoltatori. Tantissime buone notizie. Cominciamo oppure no? Tantissimi si può fare, anzi diciamo, giusto? Per esempio? Ma per esempio c'è un bel si può fare, no? Parto subito come in maniera abbastanza prevedibile. Esatto, per la rubrica paesi che ci superano, direi che oggi c'è la Finlandia che dice sì ai matrimoni e alle adozioni omosessuali. Con 105 voti contro 92, i rappresentanti scandinavi hanno deciso che il matrimonio non avrà differenze di genere in nessun caso. Ma la vera, forse buona notizia, il vero si può fare, è che addirittura l'arcivescovo a capo della chiesa luterana, ovvero Mäkinen, si è dichiarato molto soddisfatto. Ha detto: è una grande gioia per me, gioisco per loro e con loro. È bravo questo arcivescovo. È vero, è vero. E la notizia ancora più bella è che è arrivato in radio, me l'ha ricordata Alessio Maurizi. Sì. Così, e ci tengo a sottolineare. Perché per una volta ti era sfuggita. E questa è la chiesa evangelico-luterana finlandese. Ora, sicuramente sarà uno scisma. Io non sono un esperto di chiesa, non sarà certo un super ortodosso della chiesa cattolica, però fa parte è della chiesa evangelica. Assolutamente avercene di arcivescovi così, ma ci sono anche in Italia, lo ma sappiamo, il Papa stesso ha detto chi sono io per giudicare un omosessuale, insomma poi diciamo, il sinodo si sono un po' incartati, hanno sospeso il giudizio, però è stato molto bello perché lo stesso Papa comunque ha detto vabbè, ma c'è un anno di tempo adesso, perché dopo il sinodo c'è un anno di tempo, per cui adesso le idee diciamo su una famiglia anche allargata e anche diversa verranno sbagliate. Specifico, parlo soprattutto del matrimonio tra persone omosessuali, su cui non vedo assolutamente nessuna obiezione. Sul fatto delle adozioni si può discutere, è più delicata come questione, è una cosa aperta, ci sono paesi dove si è deciso di andare in quella direzione, anche in Francia tra l'altro, senza arrivare in Finlandia. In Italia però il problema è che siamo proprio fermi all'anno zero da tutti i punti di vista. Un'altra, e poi io sarei un ottimo papà, diciamolo. Questo non so, bisognerebbe chiederlo se hai dei nipoti o... Ne ho 9, quindi direi che allora possiamo chiedere. Potremmo fare un'inchiesta. Esatto, Comunque ti ci vedo. Allora, voglio dare anche un'altra notizia, un altro si può fare, che riguarda Pharrell Williams e la vicenda di Mike Brown. Il ragazzo ucciso a Ferguson dal poliziotto, per cui certo, c'è stata la mancata incriminazione qualche giorno fa. In non luogo a procedere proprio. Sì, perché il gran giurì, questo strano diciamo elemento dell'ordinamento giuridico americano, che prima ancora di fare il processo, la giuria popolare decide se c'è o no l'ipotesi di reato. Hanno deciso di no, ci sono state nuove proteste, questo ragazzo è stato ucciso comunque dal poliziotto, questo è un fatto. Pharrell Williams, il noto cantante, ha preso un po' le distanze da tutta questa ondata di proteste, è stato anche criticato perché ha detto di Mike Brown era un bullo. Forse anche un po' una gaffe questa, perché ricordiamoci che essere un bullo non è reato. Bravo. Comunque diciamo, non è sufficiente per essere ucciso. È un bullo, deve essere ucciso dalla polizia. Credo che diciamo, interpretato nella buona intenzione di Pharrell Williams, che volesse dare un messaggio anche ai giovani della comunità di colore a cui lui appartiene, di dire: non prendete a modello magari Mike Brown proprio di vita, certo, perché comunque è uno che sembra avesse fatto un furto poco prima, e probabilmente era un ragazzo forse un bullo, cioè per sì, chi c'è da capire se dobbiamo prendere quindi... a modello invece il poliziotto che ha sparato a un ragazzo che era disarmato e con le mani alzate. Forse nell'uno nell'altro, sicuramente la vittima era Mike Brown, su questo non c'è dubbio. La cosa interessante è che Pharrell Williams ha voluto forse rompere un po', come dire, uno schema, no? Un'omologazione che può portare poi a tanti ragazzi giovani a identificarsi magari anche con frange estreme, movimenti non sempre, diciamo, che portano nella giusta direzione, ammesso che esista una giusta direzione, insomma quella quantomeno di non scontrarsi a priori, a prescindere con le autorità, insomma con l'ordine costituito, di non... non so, aiutami a uscire da quel... no vabbè, mi sembra un si può fare anche questo, sì, sì. 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete commentare anche queste notizie, altrimenti il resto noi adesso andiamo a parlare. Dobbiamo... il nostro sommario è questo. Sì. Parliamo del bugiardino per i ristoranti. Hai visto questa notizia? L'ho vista, e come è passata, sono... un po' in sordina, perché deve ancora, diciamo, entrare in vigore dal 13 dicembre. I ristoranti saranno costretti a esporre tutti gli ingredienti, sì, soprattutto le componenti allergeniche, esatto, tipo lattosio, glutine, quelle cose lì. Svelando le ricette degli chef, che giustamente sono sul piede di guerra. Ma noi dobbiamo dare gli indizi per il nostro gioco, bravo. Caro mio. Allora, il personaggio della settimana che cerchiamo oggi, lo vuoi dire tu il primo indizio? No, non mi permetterei mai, sei tu il capo, io sono lo stupido mio. Dei due, come giustamente mi hanno detto che devo smettere di dire. Sì, allora diciamo inizio subito. Allora, il primo indizio per il nostro personaggio che andiamo a cercare è questo, che lui o lei, insomma il personaggio, è bravo a fingere. Quindi segnatevi questa cosa, cercate di rifletterci sopra, perché naturalmente bisogna anche un po' interpretare, estrapolare e ragionare. È bravo a fingere. 800 24 00 24, in palio i biglietti per la mostra di Chagall e il prestigioso catalogo. Andiamo a iniziare. Via. Non respiro, starnutisco, voglio uscire, non ci riesco, resto a casa ma mi annoio, guardo un porno ma sbadiglio, oggi anche lui. Peggio di così, sembra strano, sai cos'è? Non desisto, ma tossisco, voglio urlare, non ci riesco, resto a letto, ma mi annoio, guardo il muro e mi addormento. Oggi sono lunedì, sono stanco, resto qui, sembra strano, sai cos'è? Il fatto è che io sono a letto. Questi è Michele Cortese, allergico alle ghiande, insomma l'abbiamo scelto proprio perché, in maniera ironica però, parla di questo. Bisogna che legga se ci sono delle ghiande dentro in dei cibi, di modo che sappia che non può mangiarli. Esatto, perché la notizia è questa: dal 13 dicembre il menù dei piatti al ristorante diventerà insomma un po' come il bugiardino dei medicinali in farmacia, un minuzioso elenco dettagliato di cibi e componenti, alla ricerca soprattutto dei componenti allergenici, cioè di quelle sostanze, per esempio il glutine e il lattosio, abbiamo già detto, responsabili delle intolleranze alimentari di 2 milioni di persone in Italia e 21 milioni tantissimi. Di europei. Le sono famose tantissime. Tracce di mandorla che ci hai segnato a volte sugli snack. Vedo che tu sei uno che legge le etichette. Assolutamente, bravo. Infatti è una delle buone notizie di questi bugiardini è questo, che in realtà sostituiranno, anzi una delle cattive notizie, che forse sostituiranno anche i giornali nei bar, perché un po' come gli sciampi hanno diciamo eliminato dai nostri gabinetti i libri, perché ormai io sostanzialmente leggo l'etichetta dello shampoo, non è che vedo tutto quello che c'è dentro. Esatto, e quindi questo eliminerà i quotidiani dai nostri ristoranti. Un aggravio però anche per i ristoranti, che hanno qualche cosa da dire. Ne parliamo con il presidente di Confcommercio Veneto, Massimo Zanon, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, tutto questo è previsto da un regolamento comunitario, diciamolo, che entrerà in vigore non solo in Italia, naturalmente, essendo comunitario, ma in tutti i paesi membri. Insomma, ancora una volta abbiamo comunque delle prescrizioni che arrivano dall'Europa che fanno un po' discutere. Intanto ci spieghi qual è la, insomma, come ristoratori, come recepite questa richiesta che arriva dall'Europa? Allora, dobbiamo fare due distinzioni. Non mettiamo neanche per un secondo in dubbio l'informazione e la salute del possibile cliente, che sia piuttosto che al ristorante, piuttosto che al supermercato, piuttosto che alla gastronomia o alla macelleria. Quindi è un mondo molto più ampio che non solo la ristorazione, che viene colpito ancora una volta da una scelta che non è una scelta che noi vogliamo dire negativa, è positivissima, perché più si va ad essere consci di quello che si prepara, che si propone poi alla clientela, meglio è. Il problema è duplice da questo punto di vista. La prima cosa, in Europa hanno già fatto il regolamento a questa norma dicendo che si può andare per la stragrande maggioranza degli stati a voce, cioè in pratica se una persona ha delle intolleranze di qualsiasi genere, lui si trova di fronte a una difficoltà che potrebbe essere per la sua salute estremamente negativa, quindi va in un posto, ristorante piuttosto che altra parte, e dice: io ho problemi sul lattosio piuttosto che sui crostacei piuttosto che su altre cose. Sappiamo che sono 14 i ceppi di oggi individuati, perché poi le allergie e gli allergeni continuano a essere scoperti in quella che è la moderna ricerca da parte. Cioè, ci dia questa informazione: 14 ceppi allergeni sono, diciamo, quelli acclarati, cioè individuati a livello europeo. Sì, quindi certo. Parliamo, non so, per esempio di glutine, lattosi, oppure lei ci sta facendo altri esempi, vogliamo, sì, giusto per estendere un po'. Le uova, il pesce, la pasta, basta pensare che la schiena più forte è da parte dei celiaci, che oggi rappresenta un numero in forte aumento ed è ormai diventata anche una ricerca all'interno dei vari menu, di specifici menu per persone che hanno questo tipo di problema. Quindi il problema innanzitutto nasce da lì. Se in Europa si fa la scelta che si può fare a voce l'informazione al cliente, come si sta facendo ora, perché non è che ora non facciamo nulla, sì, non si capisce perché ancora una volta, ed è da qua che parte il nostro sdegno, la nostra arrabbiatura, parte dal Veneto per sollecitare tutta la politica e anche per dar man forte alla nostra Confcommercio e la FIPE nazionale, che sono le nostre sigle. Devo dire che sì, sembra un po' che sia uno di quei casi in cui, diciamo, le istituzioni, in questo caso europee, se, come dirla, in maniera un po' sporca, sembra che vogliano lavarsene le mani, cioè scrivete tutto nel menu così noi siamo a posto, abbiamo messo le cose in chiaro e, come dire, abbiamo messo anche l'etichetta sulla questione allergie. Non è proprio così. No, sembra questo, perché in realtà ha ragione lei, cioè io sono abbastanza d'accordo con lei, fino ad oggi parlando con il cameriere, con il ristoratore, e domandando se uno sa di avere una particolare allergia, domanda, gli viene risposto e in genere non si incorre in questo problema. Adesso la necessità di vederlo scritto sembra così, come dire, un formalismo in più, però forse invece è necessario. Non è la necessità di vederlo scritto. Germania, Francia, Inghilterra, siamo già arrivati a 12 paesi sui 27 della Comunità Europea. Nel regolamento che hanno fatto rispetto alla norma europea, che è statale, hanno stabilito che si può fare a voce. È in Italia che ancora non si è deciso e il regolamento ancora non è stato emanato, per cui potrebbe essere che facilmente qualcuno pensa di farlo fare solo per iscritto. Ma quindi quello che state chiedendo voi è in realtà di fare come in altri 12 paesi sempre della Comunità Europea, che anche da noi sia permesso farlo a voce, giusto? Allora, al di là che parliamo della salute, che è una cosa su cui siamo tutti sempre con le orecchie tiratissime, sì, c'è un problema: la burocrazia italiana deve smetterla di caricare sulle imprese le norme più restrittive, deve cercare di aiutare le imprese, e poi, siccome stiamo parlando di un bene, la salute, che è più preziosa di qualsiasi altra, a noi può andare bene che qualcuno faccia la scelta di farlo scritto, che possa esserci un strumento ormai quasi pronto da parte della nostra federazione informatico per poter agevolare, ma proviamo a pensare a una struttura mediamente organizzata, lo può fare una persona che ogni mattina, marito e moglie, hanno una trattoria, diventa impossibile. che fanno l'acquisto al mercato tutti no, i giorni. Ma quindi... è chiarissimo, quello che le chiedevo era come mai secondo lei in Italia non viene semplicemente approvata una norma come negli altri 12 paesi per cui si possa fare oralmente tutto ciò? Sono tre anni che la scadenza del 13 dicembre era, è dal 2011 che se ne parla, quindi l'ultima data era 13 dicembre. Probabilmente tra le migliaia di carte da sistemare in quel ministero che poi è il Ministero delle Attività Produttive non si è arrivati alla fine. Speriamo che si recuperi, ecco perché siamo partiti in ritardo, ma comunque qualche giorno prima, che basta solamente emanare una norma e poi far tutte le prassi che si vuole a livello governativo, ma a noi ci dà anche un altro aspetto, lo diciamo dal Veneto, perché non ne possiamo più di burocrazia, perché con la stessa attenzione e la stessa scelta viene fatta da per tutte le cose. Ci spiega quale potrebbe essere l'aggravio, Zanon, per un ristoratore, magari un ristorante è molto facile, guardi. Allora innanzitutto lei provi a pensare che prima di scegliere i suoi piatti deve leggere il menù, dove non è il menù che sceglie nelle quattro voci di come è composto il piatto, ma deve entrare nei particolari. Addirittura il particolare è che se lei usa un prodotto dell'industria dovrebbe riportare completamente anche quel tipo di etichetta all'interno del piatto, per cui lei va a pranzo a mezzogiorno, fa l'ordine verso la sera ora di cena, diventa improponibile un ragionamento del genere. Noi vogliamo anche essere ancora più precisi, al posto di fare un'operazione del genere, che questa è verso il cliente lunghissima, diventa costosa non in termini di costo, perché qualcuno ci fa sempre per passare quelli che vogliono piangere sui costi, no, il tempo necessario per poter fare l'operazione. Io vado al mercato stamattina, decido di fare questo piatto, lo devo scrivere e mettere sul menù. Chi è che me lo fa se sono una struttura minima che rappresenta la trattoria tipica italiana alla stragrande maggioranza? È impossibile. E poi chi ci viene a fare i controlli? Sono tutti capaci di fare i controlli, intanto fanno a noi l'ammenda e poi qualcuno si arrangia, perché quello che ci succede da tutte le parti, abbiamo più controllori noi che uno che va a fare il donatore di organi, ed è evidente che è impossibile continuare a star zitti. Dobbiamo arrabbiarci e dire: se dalle altre parti fanno in un certo modo, non vogliamo né di più né di meno che si possa lavorare. Ma per fare i controlli mandano qualcuno di allergico che assaggia qualcosa, se muore vuol dire che evidentemente non è stato comunicato tutto. No, non manderanno uno che muore, ma potrebbe benissimo fare una ammenda tale per far morire l'impresa, perché certo. Poi alla fine è una battuta cose... certo ma scusi. No, ma ci fa piacere che ci sia sempre quella parte di buon senso che è quello dell'ilarità, che sennò diventa un paese troppo serio. Esatto, no, ma infatti mi sembra molto, molto giusta la richiesta che fate voi. Quello che mi chiedo è che semplicemente va approvata questa norma, cioè al di là della lamentela generica che ci sta, però mi sembra che qua c'è anche già la soluzione. Come hanno fatto in altri 12 paesi, si può fare che anche in Italia sia tutto orale, giusto? Ecco, ma le dirò di più, in Italia si è ragionato, siccome sempre la paura di arrivare all'ultimo minuto che non ci sia l'opzione a voce, anche di preparare un supporto d'aiuto, ma non può essere quello che risolve il problema, visto che gli altri fanno diversamente e visto che noi, ed è quello che anche i giorni scorsi in qualche trasmissione mi sono permesso di dire, il motivo che in Italia un signore viene a far vacanza, oltre alle nostre bellezze e al nostro ambiente che spesse volte abbiamo ancora mantenuto in ordine, è la enogastronomia, questa nostra valenza certo. In più. È possibile che vogliamo buttarla a mare per far diventare tutto un... Beh no, ma non credo che si butti a mare. Certo, lei ci sta dicendo che per i ristoratori può essere un problema, però una soluzione la troveremo, non si butterà a mare, credo niente. Potrebbe essere una soluzione, una sorta di appendice al menù nella quale insomma, perché poi un ristorante avrà dei fornitori più o meno fissi, saprà quelle che sono le materie prime che utilizza, e quindi avere un'appendice fissa al menù che, anche se varia l'ingrediente essendo diciamo gli stessi, in fondo uno può trovare una specie di leggenda, insomma, no? Di leggenda con una... Se si vuole trovare dei compromessi alla fine si trovano, però la verità è esattamente questa: noi informiamo già da subito in quattro lingue che qualsiasi cliente, anche che viene dall'estero, in base alla sua diciamo abitudine, avvisi del problema, quindi già diciamo: se ce l'avete ditecelo, perché all'interno dei piatti ci sono, non c'è niente da fare, uova, latte è impossibile che non ci sia. Ma questo non si fa, certo. Però io non è che ci sono in tutti i ristoranti italiani i menù in quattro lingue. Adesso proprio in funzione di questo lo stiamo proponendo a livello veneto e mi auguro che lo facciano tutti i colleghi. E una delle quattro lingue è il veneto? No, per fortuna abbiamo, forse dicono che sia veneto, ma abbiamo pensato che sia il russo, una delle grandi possibilità oggi, che è difficile da parlare magari in inglese. Soprattutto da scrivere. Sì. No, vedrà che da questo punto di vista la categoria è molto attenta perché vuole il futuro. Ma mi permette la battuta sulla ristorazione. Sì, sì. La ristorazione è fantasia, è capacità di inventare ed è soprattutto non standardizzare. La cucina che fa la signora che abita in una via è completamente opposta alla via opposta del stesso paese, e così anche la ristorazione. Va se bene. La vogliamo, sì. Se la vogliamo mettere all'interno di un range, buttiamo via una fortuna. Caro Zanon, grazie per essere stato con noi. Noi grazie adesso mille. Apriamo il, insomma, il telefono, il numero verde a chi invece magari ha delle allergie al glutine o cose di questo genere e che ci chiami per dire se la posizione che avete appena sentito vi basta, è sufficiente, oppure se questa prescrizione, diciamo, di vederselo scritto sul menu è una cosa attesa, interessante. Anche perché va anche detto che ci sono persone che non hanno voglia di parlare delle proprie allergie, cioè di entrare dentro in un ristorante ed elencare tutti i problemi fisici che hanno e preferirebbero leggerlo sul menu. Zanon, ha sentito l'obiezione di Gabardini? Questa non ci avevamo pensato, può essere interessante. Ma, io penso che moltissima gente, proprio per non far sapere i propri affari, non ci va proprio al ristorante. Vabbè, però questo sarebbe terribile. No, questo guarda, sarebbe io peggio parlo per voi, anche per però, esperienza personale, avendo sarebbe peggio molti per amici, voi, però. Molti amici celiaci, e quindi di solito uno sta lì e parla e chiacchiera, però a volte questa cosa qua può essere disturbante, perché uno non ha voglia di raccontare. E potrebbe essere peggio per voi, però, perché se sono 2 milioni in Italia, ma in crescita, 20 milioni in Europa, non lo so. Questo locale vi farò dare il menu come deve essere fatto secondo la norma e poi voi dovete prendere 2 giorni di ferie prima di dirmi cosa volete fare. Mi raccomando, questa è una buona battuta, giusto, che uno deve telefonare tra l'altro uno deve anche telefonare 4 settimane prima sperando di non diventare allergico a un nuovo prodotto nel giustamente tempo. Grazie Zanon, buona grazie giornata, buona domenica. Grazie, buona domenica, buon lavoro, salve voi. 800 24 0024, cari amici all'ascolto, chiamate e diteci se avete qualche allergia a qualcuno di questi componenti che abbiamo citato, ma insomma sono molti, cosa ne pensate sia di quello che è la previsione europea di diciamo quella più stringente di scrivere nel menu tutti le componenti, sia quello che proponeva invece Confcommercio Veneto, cioè di fermarsi ad una spiegazione orale ristorante per ristorante. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo Maurizio che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Aspetti, che sposto. Ecco, stavo dicendo. Sì. Cosa sposta? Che sposto che l'ho messo il viva voce, visto che è una 20 minuti che attendevo. Le chiediamo scusa. Prego. No, ci mancherebbe. Il discorso è molto semplice, il signore parla per un interesse di bottega, in questo caso è proprio il caso di dirlo, ma evidentemente lui non sa che cosa vuol dire essere celiaci. Io sono celiaco, mia figlia è celiaca e mia moglie, abbiamo dei problemi enormi. Quando si gira, si va in giro, si va in vacanza, si va per lavoro, è un problema enorme. Il 90% dei camerieri sono oggi non proprio italiani, ma maggior parte Bangladesh, filippini. Farsi capire è una cosa complicatissima, soprattutto si gioca col fuoco. Allora dico, sa che vuol dire andare in giro col cortisone, con le iniezioni, su 2 volte sono stato al pronto soccorso. Io sono stato ad una gelateria dove ho acquistato del gelato sicuro, gelateria, un cono sì. per la bambina, dove sono stato sicuro di aver preso il gelato senza il latte. E là invece dentro questo gelato c'era il latte, ho dovuto portare la figlia al pronto soccorso perché era diventata viola. Allora dico, cioè lei dice se fosse scritto nero su bianco, come dire, è una cosa allora, su cui non si può nell'era mentire. Digitale, ognuno di noi ha 4-5 telefonini, 10 iPad. Allora il signore attiva quello che già negli altri paesi fanno, così si mette la coscienza a posto, mette un iPad fisso al tavolo dove fa vedere la pietanza e dove sopra ci sono gli ingredienti. Beh, però stiamo parlando, è un bel investimento, stiamo parlando anche del piccolo ristorantino in provincia che non è che può mettere su ogni tavolo un iPad, è questo di cui stiamo parlando, perché è ovvio, nel senso che nella grande ristorazione si può risolvere in questo modo. E tra l'altro la cosa che devo chiedere, nel senso che siccome in altri paesi è accettato il fatto di farlo oralmente, secondo lei invece non va bene questa cosa? Va bene perché molto spesso, lei può proprio andare in America, io sono stato, tremano, quando lei dice che è celiaco, tremano, perché la giustizia in America, che è una cosa ben lontana dalla nostra, li massacra, se gli fa un'azione di responsabilità che li distrugge. Allora quando lei dice guardi io sono celiaco, voglio, vengono tutti dalla cucina a sentire, perché beh, sì, sono cose di cui tremare, soprattutto perché per chi gli accade, gli ripeto, non è bello andare al pronto soccorso con una figlia col volto viola. E questo sta a significare che ben vengano queste azioni in un'Italia così sgangherata. Maurizio, lei quindi ci dica, questa norma, diciamo, europea che dovrebbe scattare se non interverranno prima, diciamo, altre norme italiane, lei immagino che l'aspettasse con favorevolmente. Anche perché, un ultimo e termino, sì, oggi ci sta la legge Bersani, entrata in vigore, che ha liberalizzato le licenze. Ci stanno molte persone, si mettono al lavoro, produttività, si mettono a fare. La manipolazione degli alimenti è una cosa delicata, di conseguenza quando si improvvisano gente c'è il rischio che tu ammazzi la gente, mi creda, c'è il rischio che ammazzi la gente. Va bene, questo però è, diciamo, ha a che fare poi anche con la professionalità in cui ci si imbatte, insomma bisogna anche fidarsi un po', per fortuna non succede tutti i giorni che al ristorante si vada e uno è allergico, gli viene detto una cosa per un'altra e muore, insomma, perché c'è molta attenzione naturalmente da parte anche degli operatori su questo, ce ne deve essere ancora di più perché lo impone una legge europea, vedremo quale sarà poi la soluzione adottata. In ogni caso è un passo in avanti che verrà fatto in un modo o nell'altro, io credo questo sì. Andiamo con un altro ascoltatore, Andrea da Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie. E poi aspettiamo naturalmente, mi scusi, le vostre risposte per il personaggio della settimana che dovete indovinare. Il primo indizio, lo ripetiamo, è che è bravo a fingere. Prego, Andrea. Allora, io ho ascoltato le vostre telefonate e sono molto contento perché io rappresento una startup che ha sviluppato un sistema per la sicurezza che può essere portato ai ristoratori. Cosa abbiamo realizzato? Il QR code dinamico e non statico. Pensate questa cosa, ogni ristoratore sul proprio menu in parte al prodotto che vende mette un QR code. Sappiamo che il 90% della popolazione italiana ha uno smartphone, va a l'85. Sì, quindi, esatto, un po' meno, e comunque anche l'altra parte, diciamo, ha diritto a sapere che tipo di ingredienti però ci sono all'interno. La comunque spiegazione finiamo, con il QR code. Intanto, che cos'è il QR code per chi il si fosse svegliato un po' confuso stamattina? Quadratino che vediamo ormai in giro in tutta Italia, quello che rimanda alle pubblicità. Se io cosa faccio con lo smartphone? Gli faccio una foto? Allora, io non l'ho mai fatto. Esatto, lei scarica un'applicazione gratuita, sì, che è un QR code reader che sono è un lettore è un lettore di QR, è gratis, non è un'applicazione che è a pagamento. Lei cosa fa? Fotografa questo QR code e lui mi dice tutto quello che c'è dentro. Esatto, la facilità qual è? Allora, principalmente il QR code viene utilizzato per far pubblicità. Noi come società l'abbiamo modificato, abbiamo creato un sistema che permette di perfetto gestire. Ma a chi la state vendendo o lo avete già venduto? No, noi siamo una startup che è partita 4-5 mesi fa e lo stiamo producendo per la sicurezza. Abbiamo fatto braccialetti per la sicurezza perché chi va in giro ma la sicurezza, diciamo, in generale o sicurezza alimentare in particolare? No, noi principalmente abbiamo vari sistemi per la sicurezza in generale, okay. Abbiamo fatto per i motociclisti. Però restando al tema, state pensando di applicarlo anche a questa situazione? Esatto, qua. Perché se lei pensa, io vado al ristorante, io ho lo smartphone. Ho mia figlia che ha lei. No, ma abbiamo capito. Qual è il risparmio per il ristoratore? Il ristoratore che è lui in qualunque momento può aggiornare il listino, non deve andare a fare senza doverlo stampare, eccetera. Momento, come funziona? Nel senso che deve stampare un altro QR code e metterlo su. No, QR code è sempre quello. Deve aggiornare i contenuti, credo. Esatto, sì. Bravissimo. Aggiorna il contenuto in 5 minuti. Se lei va su, non so se quindi, posso scusi, dirlo. Per finire, perché così poi la mettiamo in contatto con Zanon di Confcommercio Veneto e magari fate la startup, la applicate ai ristoranti del Veneto. Questa cosa qua ha un costo minore, secondo voi, di stamparsi i menù? Sì, alla fine sì, perché lo fa una volta sola. Perfetto, va bene. Il QR code, se lei va su, no, posso fare la pubblicità se vuole andare per far spiegare che cos'è esattamente, www.idshooter.com, avete tutte le informazioni di questa nuova tipo di tecnologia. Ottimo. Vabbè, credo, insomma, nonostante l'ora, 9:45 domenica mattina, e le idee non proprio chiarissime su tutto quello che è il QR code, però io ho capito. No, assolutamente. Credo che abbiano capito anche gli ascoltatori. Grazie, Andrea. La questione è che questo il QR code ti permette di non ristampare il menù, però rimane il problema di cui ci parlava anche Zanon, che se tu cambi salsa di pomodoro, nel momento che cambi salsa di pomodoro devi prendere tutta l'etichetta della salsa di pomodoro e inserirla all'interno, poi che sia è vero, è molto meglio è che lo fai un'unica volta all'interno del QR code in modo che tutti lo sanno, piuttosto che ristampare il menù ogni volta che cambi le olive. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è solo il tema dei menù che dovranno essere aggiornati nei ristoranti riportando tutte le componenti allergeniche a favore di chi ha queste allergie a tormentare, diciamo, i ristoratori e magari anche gli albergatori. C'è la annosa vicenda delle recensioni di TripAdvisor, di tutto il social network, quale, di esatto, è utilissimo per chi viaggia, per chi va in giro a leggere recensioni e si informa, però attenzione perché sappiamo che c'è un mercato di queste recensioni, tante volte ci sono il ristorante a fianco che per vendetta scrive cose negative, non è vero, insomma, ne sono venute fuori di tutti i colori. Allora, l'ultima notizia veniva dall'Inghilterra qualche giorno fa, due persone di mezza età che facevano un soggiorno in un albergo hanno fatto una recensione negativa sull'albergo dove si trovavano con tanto di foto, era veramente un tugurio, ammesso che le foto fossero originali. E che i tuguri siano brutti, e che i tuguri siano brutti, in genere sì, si sono ritrovati sul conto alla fine una multa perché avevano firmato senza accorgersene una clausola che diceva non potete fare recensioni online su questo albergo. Apriti cielo, la discussione infinita. Noi vogliamo parlare con chi in questo settore lavora e ha creato una vera e propria novità che si chiama Frippi, un portale, un social network nel quale facendo recensioni non necessariamente positive si vincono, comunque si ottengono sconti, riduzioni e anche notti gratis o cene gratis in ristoranti e alberghi. E salutiamo Benedetta Borri, project manager di Frippi. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ci eravamo già sentiti un po' di tempo fa, insomma, al lancio di questa iniziativa. Ecco, intanto come sta andando il portale? Bene, sta andando bene con tutte chiaramente le criticità tipiche delle start-up in Italia, non solo, però gli utenti crescono, aumentano le recensioni sia istantanee sia chiaramente foto, attrazioni aggiunte eccetera eccetera, aumenta quindi l'attività social sulla piattaforma ed aumentano le prenotazioni, quindi per noi è un grande successo, aumentano anche le strutture che si affiliano alla piattaforma e questo dimostra un po' che se non altro l'idea è stata colta. L'idea è in qualche modo vincente. Perché... Ma ci spieghi come racconta Frippi, come funziona Frippi? Allora, Frippi in realtà si capisce proprio partendo da quello che era il problema che noi volevamo risolvere originariamente, cioè Frippi è nato da un pool di soggetti che lavorano nel settore del turismo da ormai tanti anni, tra cui appunto un albergatore. E l'idea qui è stata, bene, ci sono una serie di, cioè c'è un problema diciamo che è trasversale a tutte le imprese turistiche al giorno d'oggi, che è quello degli spazi invenduti, in gergo si chiama produzione perduta, cioè le stanze d'albergo che rimangono vuote. Esattamente, stanze, ristoranti, posti, eccetera. Beh, il ristorante è un po' diverso, quindi, perché c'è la materia prima, che se non hai nessuno comunque non è che la butti via, mentre la stanza d'albergo effettivamente rimane vuota. Assolutamente, però comunque esattamente, perché se non altro nella stanza d'albergo hai già pagato i costi fissi. Esatto. E questa è un po' l'idea, no? Di dire, bene, come si fa a rigenerare questi spazi che rappresentano una perdita per l'albergo? Semplicemente andando a fare cosa? Andando ad introdurre un sistema che permette agli operatori, quindi in questo caso agli albergatori, parliamo di questo dato che avete ormai introdotto il tema, di sostanzialmente utilizzare un loro spazio invenduto, quindi una camera che è rimasta vuota, per ospitare gratuitamente degli utenti social che in cambio, quando vivono la propria esperienza, nel momento in cui la vivono, la raccontano in tempo reale collegata ai loro social. Sì, che è il contrario, che è il contrario di quello che è successo in quell'albergo in Inghilterra, dove per una recensione si sono visti addirittura applicata una multa. Qua è esattamente il contrario. Ma la recensione deve essere per forza positiva? Ovviamente no, non ci può essere questa clausola. Assolutamente no. Cioè io posso anche scrivere, anche questo posto fa schifo e mi becco lo sconto? O non è proprio così? Allora, non funziona così. L'utente che arriva, già l'utente che arriva e a prendere la camera gratuita è un utente che è qualificato, perché per ottenere la stanza gratuita devi aver raccontato tramite già precedentemente molte altre volte, esatto. E come si inizia? E vanno a vedere come si inizia, scritto, però, perché diventa il solito problema. Come si inizia? Prima o poi uno deve fare la sua prima recensione. Si inizia facendo delle recensioni. Semplicemente ci si iscrive al portale facendo recensioni su posti dove sei già stato, ma la differenza è che la fai attraverso un profilo nominativo. Quindi si sa esattamente chi sei e cosa hai fatto. Benedetta, la questione è questa, credo di aver capito che non sia necessario che la recensione sia per forza ottimistica, ma la recensione in sé per sé serve anche al ristorante o all'albergo per salire un po' di grado quando uno cerca su internet, su Google, e avere più recensioni serve per crescere. Quindi è un po' anche questo il meccanismo. In realtà serve per generare visibilità, cioè per trasformare uno spazio che è invenduto in qualcosa che di nuovo invece viene utilizzato. Cioè, in sostanza, io ho uno spazio che non vendo, questo spazio lo uso per farmi pubblicità a costo zero, come del resto fanno già ospitando dei giornalisti di viaggio, ospitando altri, ad esempio, i famosi mystery guest, eccetera, eccetera. Il discorso è che in questo caso l'utente che arriva è un utente qualificato, perché già ha avuto la possibilità di raccontare. Questo ce l'hai detto, Benedetta, persona. Dobbiamo chiudere purtroppo, certo, perché abbiamo il giornale radio. Intanto grazie per essere stata con noi, Benedetta Borri di Frippi, è un mondo verso il quale, insomma, ci siamo aperti, vogliamo anche sentire la vostra opinione, ascoltatori, 800 24 00 24, se fate le recensioni, se ne avete fatte e cosa ne pensate di quello che è accaduto in Inghilterra e di quello che ci ha raccontato Frippi. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. We're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I love you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now. E questa è Black Widow di Iggy Azalea, che è la canzone che ci è stata consigliata e scelta dalla nostra ascoltatrice Marianna Bruschini. Ricordiamo che potete sempre consigliarci il vostro Si può fare in musica, che noi stiamo cercando ormai da quasi un anno, per poi fare una tournée, Alessio ed io, o un CD di tutti i nostri Si può fare in musica. Potete comunicarceli postandoceli sui nostri social, sul nostro social che è @sipuofare24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @carlogabardini. E il mio è @AleMaurizzi. Abbiamo un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666. come si scrive questo Frippi? Non riesco a trovarlo sui motori di ricerca. E lo dico io, FRR, non la mia R mocia, la R normale, E-E-P-P-I-E. Questo è Frippi. Caro ascoltatore che scrivi Frippi con la I e si scrive invece con la due E all'inglese. Diciamo viene da free, libero, e poi P, la chiusa di IP. Ecco, sì, credo che sia. Potevamo chiederglielo a Benedetta prima che era con noi. Abbiamo... È l'unione fra free e IP. Perfetto, abbiamo gli ascoltatori in linea anche per giocare col personaggio della settimana. Roberto da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutte e due, buona domenica. Grazie, buongiorno. Io volevo giocare appunto al quiz della settimana. Pensavo che per il personaggio potesse essere Francesco Totti. Perché? Francesco Totti. Allora, perché è bravo a fingere, pensavo alla finta calcistica. Ah, questo è interessante, è una critica, diciamo. No, finta. Ah, la finta. Perché tu non sei un appassionatissimo. No, sono un appassionato, ma la finta è anche quando ti butti in terra e fai finta che sia un rigore. Quindi, diciamo, di solito la finzione è quella. No, dicevo la finta nel senso della finta e poi via, si va verso la porta. Certo. E poi perché insomma c'è stata la storia del CSK, alcuni giocatori della Roma, sì, che sarebbero andati in un locale, lui invece è rimasto in albergo, e quindi pensavo potesse essere lui. Bella risposta, però non era Totti, Totti. Siamo contenti di aver dato la notizia. Sì, era carina tra l'altro. Poi la finta sia in un senso che nell'altro, ma soprattutto nel senso del liberarsi dell'avversario. Totti sicuramente, certo, ce l'ha, ma e poi soprattutto era buona anche la notizia, perché si può anche non fare, diciamo, andare nel locale notturno dopo una partita, si può anche non fare. Esatto. Maria da Milano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, io ho pensato a Leopardi. Come personaggio, perché? Perché nell'infinito dice io nel pensiero mi fingo, e lui è molto bravo a fingere. Ah, però pensa un po', è un fingo volando che alto. Significa altro, diciamo, nel senso che sì, mi immagino, certo, io nel pensiero significato di costruire con la mente. Esatto. Ottimo. Sì. E la notizia su Leopardi? Beh, il film forse. Non lo so, sentiamo. No, dai, io sono un insegnante. E quindi è sempre diciamo all'ordine del giorno. Cosa vuol dire Maria? Giorno, no, scusi, è Maria. Cosa vuol dire Maria? Che lei è un insegnante, quindi le notizie per lei sono diverse. No, io è che Leopardi. La notizia è il film. Ecco, appunto, il film. Certo, ecco, dico sì. Io ci ho pensato perché sono un insegnante. Brava, giù. No, ma ci potevano pensare tutti. Comunque non era Leopardi. Bella, però, molto bella questa cosa che ha trovato Maria. Io nel pensier mi fingo. Molto, molto interessante, divertente, bella. Vogliamo aggiungere a questo punto un indizio per, come dire, sì, dai, per uscire completamente forse anche da Leopardi. Da Leopardi, direi. Sì. Perfetto, allora lo do io l'indizio. Sì. L'indizio è un sex symbol il nostro personaggio, quindi diciamo, poi c'è anche a chi piace la gobba comunque, quindi diciamo non abbiamo ancora escluso, però Leopardi l'abbiamo escluso perché c'è già stata data come risposta. Benissimo, allora andiamo con Beniamino da Vicenza, buongiorno. Beniamino. Che succede? Sì, pronto, buongiorno. No, un po' che attendevo, scusate. Eccoci qua. Scusate. Niente, io volevo tornare sull'argomento principale con cui che avevate trattato prima, sì, che era quell'inserimento nel menu di questi poveri, mi sembra a questo punto, ristoratori. Gli allergeni. Veramente impossibile da poter fare, o comunque una burocratizzazione che veramente è spinta anche in questo senso. Mi sembra abbastanza una follia, mi sembra che questi burocrati in Europa non hanno di andare. Oddio, Beniamino, lo sentiamo che va e viene. Beniamino, lei come risolverebbe però il problema di dare informazione a quei 2 milioni italiani, 20 milioni in Europa, di persone allergiche a varie cose? Ma intanto a me sembra che ci sia anche una commissione di interessi delle grandi multinazionali che delle cos'è, delle complotto, il grande complotto anche qua, perché? No, non è che non sono assolutamente un complottista in questo senso, un dietrologo. No, però che chiaramente grandi catene come può essere, vabbè, inutile fare grandi, sappiamo, grandi nomi che ci sono nella ristorazione, quelle anche nel junk food. Sta per arrivare McDonald's, così a sensazione. Dillo tranquillamente. Possiamo fare i nomi. Chiaramente loro hanno tutta un'organizzazione che dover inserire all'interno dei loro menu una cioè scusa abbiamo capito però tu vedi la mano di McDonald's dietro la decisione dell'Unione Europea di fare questa cosa qua cioè di mettere le allergeni nei menu? Secondo me è un interesse che si sposa benissimo con queste catene nel senso che per loro è un problema che si risolve. Ma secondo te un celiaco va da McDonald's perché c'è... Un celiaco da McDonald's non trova quasi niente. Infatti, appunto, quindi che senso avrebbe? Non capisco. L'insalata forse? No, è perché appunto le persone si sentono, e proprio mentalmente si sentono più tranquille nell'andare nei posti dove hanno una marca che da un certo punto li garantisce. E che, però scusami, non ha molto senso perché se parliamo delle persone in generale forse sì, ma se parliamo del caso delle persone che hanno allergie sanno benissimo che da McDonald's è meglio non entrarci, perché come diceva Gabardini giustamente non mangi nulla perché ma anche chi non ha allergie nel senso sì. No, quello che le persone attente al cibo sicuramente non vanno da McDonald's e soprattutto non credo. Mi sembra difficile che uno scelga McDonald's, prediliga McDonald's al posto della trattoria sotto casa perché da McDonald's ci sono i menu dove ci sono scritti tutti gli ingredienti, in questo senso poi sono d'accordo con che è una cosa che crea più problemi alla piccola ristorazione piuttosto che alle grandi catene. Questo è verissimo. Era il punto di vista che abbiamo affrontato, tra l'altro, proprio dando ampio spazio al presidente della Confcommercio Veneto Zanon. Esattamente. Lo facciamo un altro ascoltatore al volo, dai, un secondo prima di andare sul traffico, Filippo. Sì, dai. Piero da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Buona domenica a tutti quanti gli ascoltatori, a voi. Sì. Volevo intervenire sulla cosa che è successa in Inghilterra, in generale sulla prenotazione fatta via internet. Io non so se in Inghilterra esistano delle leggi precise in questo riguardo, ma mi sembra una mostruosità che se uno esprime un commento, sia pure in diretta, diciamo, venga sanzionato soprattutto da un privato. Per quanto riguarda in generale il problema di fare la prenotazione via internet, io la faccio abitualmente da alcuni anni, ho l'abitudine, se è possibile, di contattare poi la struttura direttamente al telefono o quant'altro per avere maggiori informazioni, avere un link in qualche modo più diretto e non ho mai avuto problemi. È che la notizia che avevamo dato è una stortura, nel senso che c'è questo albergo inglese che fa firmare una clausola per cui tu non puoi fare una critica online, ma credo che sia anche un po' una mezza follia, perché non credo che sia nemmeno legale che tu possa chiedere che sia vietato commentare l'albergo. Era una clausola che hanno firmato, così riportava la notizia, e quindi diciamo i signori si erano un po' legati le mani da soli, anche se può sembrare assurdo. Il discorso sulle prenotazioni online non so quanto c'entra in realtà col tema di Frippi, perché lì si parla più che altro di recensioni. Comunque grazie anche a Piero per essere stato con noi. Traffico, torniamo tra poco. 00024 00024, ripetiamo l'indizio, va? È un sex symbol, il personaggio della settimana, ed è bravo a fingere, che andiamo cercando. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. At home, sitting in my favorite nook. A girl's trying to get me eat some dinner she cooked. I'm reading a book, girl, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. On my shoulder, I got pulled over. Pigs trying to get me roll my window lower. I'm reading a book, pig, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. Why all these people always interrupting me? What I gotta do to try to make them say? Adesso entriamo in libreria, come si può evincere dalla canzone I'm Reading a Book che stiamo ascoltando. E salutiamo. Sono sempre dei rebus le nostre canzoni, in realtà. Poi avete tutta la playlist sulla pagina internet di Si Può Fare, sul sito di Radio 24, www.radio24.it/si può fare. Trovate tutto, anche le musiche con tutte le scelte originali, soprattutto del nostro autore Andrea Piana, che salutiamo e ringraziamo. Entriamo in libreria, dicevamo, e salutiamo Giulio Saltarelli, che lavora alla libreria All'Arco di Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buona domenica. La andiamo a disturbare nel giorno di riposo. Beh no, spesso le librerie sono aperte la domenica. Voi siete aperti sì, la domenica? Siamo aperti. Adesso non tocca a me oggi, che ho fatto domenica scorsa, ma siamo aperti. Perfetto. Giulio, che è l'autore di una, come vogliamo chiamare, una campagna virale partita su Twitter con l'hashtag altro che Amazon, che insomma ha riaperto un po' una discussione, ha suscitato emozioni sul tema appunto delle difficoltà che hanno le librerie con, insomma, nel confronto con i giganti che vendono su internet partendo da Amazon. Tutto nasce però, ed è bello raccontarlo, da un episodio vissuto da Giulio nella sua libreria, un bel episodio che dimostra l'utilità, la necessità, la vitalità anche delle librerie, anche quelle piccole. Ce lo vuoi raccontare intanto? Sì, volentieri. Tutto nasce da una situazione abbastanza comune che si presenta in tante librerie, e cioè quella di un cliente che entra, cerca il libraio dicendo: guardi, io non mi ricordo il titolo del libro, non mi ricordo l'autore, ho in testa solo l'immagine della copertina. Già si inizia male, perché se uno non si ricorda proprio niente, è difficile. E cosa si ricordava solo? Che cosa c'era in copertina? Non si ricordava né il titolo né l'autore, si ricordava solamente l'immagine della copertina. Perfetto. Allora, ovviamente, insomma, noi abbiamo trovato il libro e questa persona si è prodigata in ringraziamenti. Ah, se non ci foste stati voi, siete stati fantastici, eccetera. Allora mi è venuto da risponderle a questa ragazza: ha visto? Altro che Amazon. E lei mi ha detto: lo puoi dire forte. Allora questo altro che Amazon ha cominciato un po' a girarmi in testa. State dando un consiglio ad Amazon che secondo me metterà il riconoscimento con l'immagine della copertina in questo aiuto, momento. Aiuto, scusami, ti ho interrotto. No, niente. E quindi è nato questo hashtag? È nato, sì, di farlo diventare un hashtag. Abbiamo una pagina Facebook noi abbastanza frequentata, con una bella comunità di clienti lettori, e abbiamo deciso di lanciarlo lì. E abbiamo deciso di farlo anche coinvolgendo una dozzina di altre librerie in Italia che abbiamo conosciuto nel corso dei nostri anni di lavoro, eccetera. Quindi insomma siamo partiti a metà ottobre più o meno, circa una dozzina di librerie tutte insieme lo stesso giorno, chi su Facebook, chi su Twitter, lanciando questo hashtag, che ha lo scopo di non fare una campagna di sfida contro Amazon, che non avrebbe neanche senso, ha semplicemente lo scopo di segnalare una differenza tra le librerie fisiche e un negozio online. Infatti questa mi sembra la parte più interessante, se devo dire, perché mentre la battaglia che è stata fatta un po' di anni fa contro gli sconti, diciamo, da parte delle librerie che secondo me non vi hanno fatto ben volere da parte del pubblico che improvvisamente si è sentita privata di uno sconto che era quella dei siti online, invece quello che sottolineate voi mi sembra molto bello, che è il fatto di dire: non stiamo dicendo meglio o peggio, stiamo dicendo che sono due cose diverse. Cioè, se uno deve comprarsi, c'è bisogno 30 di libri, uno e dell'altro, lo stesso libro, so benissimo che libro è, posso anche farlo su internet, ma il consiglio dei librai sono proprio un'altra cosa. Ma sì, ma non solo, cioè io entrando in libreria semplicemente con una rapida occhiata abbraccio centinaia di titoli, cosa che ovviamente sulla pagina di un sito non posso fare. Posso approfittare del consiglio di un libraio che mi guarda negli occhi mentre mi parla, che magari mi conosce, non di un algoritmo impersonale. Oppure molto più semplicemente, altro che Amazon, è tutto quello che viene fatto in una libreria e che un negozio online oggettivamente non può fare. Esempio pratico: noi nel corso di quest'anno abbiamo avuto oltre 60 incontri con gli autori, cioè altro che Amazon. La settimana scorsa sono venuti in libreria Flavio Tranquillo, grande telecronista, leggenda. Sì, tra l'altro collabora italiano spesso anche con Radio 24, come non lo conosciamo? Cioè, però quello Carofiglio, quindi insomma, farsi una foto, venire in libreria e farsi una foto con Flavio Tranquillo, Gianrico Carofiglio, altro che Amazon. Ma uno viene, si fa la foto, poi si compra il libro su Amazon, forse è questo che accade. C'è una cosa, come posso, sei malizioso, Gabardini, no, non è così, dai. No, no, c'è un episodio carino, secondo me, che vale la pena raccontare, se posso farlo. Certo. Venuto la settimana scorsa Donato Carrisi, autore di thriller, insomma, piuttosto noto. Sì, sì, lo conosciamo, lo salutiamo anche. Un cliente viene alla presentazione, poi se ne va a mani vuote. Allora io lo fermo e gli dico: ma non si fa a firmare il libro? Ora questo mi ha detto: mi vorrete male voi, ma io l'ho comprato in ebook. Allora gli ho detto: guarda, qua ho il suggeritore di Donato Carrisi, che è il suo primo libro, in offerta 5 euro, non ti costa così neanche in ebook. Allora lui mi ha detto: sì, dai, aspetta che lo prendo. Giulio, sei fortissimo come libraio. È un libro straordinario, del primo libro. Ma di Giulio, Donato sei Carrisi, fortissimo come libraio, cioè non ti lasci sfuggire un colpo. No, una lotta. La settimana dopo, cosa è successo? Sì. Io ho rivisto il cliente con la moglie, il figlio, un passeggino, è entrato in libreria e ha preso L'ipotesi del male, sempre di Donato Carrisi, che è il seguito del suggeritore. ed l'ha preso cartaceo. Allora ho detto, ha visto che è un'altra cosa, e quindi ovviamente, altro che Amazon, anche qua. Mi fai leggere qualche tweet che è uscito con l'hashtag altro che Amazon? Allora, certo. Per esempio, il Ponte sulla Dora, libreria, credo, dice sì. Roxana e Maddalena del duo Bragal, sì, esatto, tra libri e musica per il compleanno della libreria, grazie, altro che Amazon. Oppure c'è il tweet di Radio 24 molto ritwittato, l'iniziativa di Giulio Saltarelli per far scoprire le piccole librerie. Poi abbiamo libro sospeso in arrivo, questo ce lo dice Luca Libri Caffè, quindi la pratica del libro sospeso. Oppure a Cagliari riapre la libreria Il Bastione sabato 29 alle 17, buone notizie, altro che Amazon. Insomma, avete messo in fermento tutto il mondo delle librerie. Sì, è stato interessante perché abbiamo avuto da subito adesioni da Torino fino a Roma. Poi nel corso di questi giorni molte altre librerie di cui io manco sapevo l'esistenza ci hanno scritto dicendo ah che bello, ci stiamo anche noi, insomma siamo riusciti a coinvolgere tutta una serie anche di soggetti che mai avremmo pensato, quindi è stato un bel successo. Poi insomma l'hashtag ha girato perché ci avete chiamato voi, sono usciti pezzi sul Corriere, su Repubblica, insomma sul Fatto Quotidiano, è piaciuta. Giusto, ma anche perché pensiamo che sia giusto comunicarla questa cosa. Volevo chiederti una cosa, pensi che io sono un grande estimatore dei librai e già nel momento che le librerie sono diventate la grande distribuzione si è persa la capacità dei librai di essere quelli che invece conoscono tutti i libri. Mi chiedevo se con l'avvento addirittura anche dei siti che vendono i libri si è migliorato, cioè se siete migliorati come librai perché siete obbligati ad offrire veramente un servizio, ad essere dei bravi librai, perché a quel punto altro che Amazon, perché se uno non è un bravo libraio non è vero che c'è altro che Amazon, è solo se uno è un bravo libraio. Dobbiamo essere ogni giorno sempre più bravi perché ovviamente il mercato include nuovi player, nuovi competitor, cioè, quindi ha portato del bene. Ha portato del bene anche i siti. Devi diventare più bravo, devi imparare a fare sempre meglio il tuo lavoro, devi imparare a sorridere a chi entra, devi imparare a essere sul pezzo e conoscere quello che accade nel mondo per essere poi sempre presente quando un cliente entra e ti chiede qualcosa che ha letto in TV, ha sentito per radio, ha visto sul giornale. Quindi insomma dobbiamo essere sempre più bravi perché dobbiamo, affossare ogni tipo di concorrenza solo con la bravura del fare il proprio lavoro. Sì. Cari amici librai all'ascolto, ascoltate Giulio Saltarelli, la libreria all'Arco di Reggio Emilia, magari fate un salto anche nella sua libreria, chi ritiene di avere qualche cosa da imparare, perché secondo me da questo atteggiamento, da questo spirito anche c'è molto da imparare, almeno io mi sono divertito. Grazie Giulio. Grazie mille. Grazie a voi. Buona domenica. A tutti. Altro che grazie. Amazon, su Twitter se volete twittare trovate l'account, cioè l'hashtag, e potete twittare anche con l'account del programma si può fare 24. Stavi dicendo affossiamo Amazon, affossiamo, che forse è il nuovo hashtag dopo che ce l'ha detto lui qua in diretta. Voglio dire Filippo e regia, possiamo fare un ascoltatore prima di andare in pausa? Sì, perché poi abbiamo gli slot pubblicitari, dobbiamo rispettarli. Anna Bruna dalla provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Io penso che il personaggio sia Richard Gere perché si è travestito per fare un film e quando è andato per strada nessuno l'ha riconosciuto. Ah, è vero. È il film sugli homeless. Sì, è bella questa. Lui sicuramente è un sex symbol. Sa fingere. Quanto attore. E la notizia, la notizia legata a Richard Gere è quella del film? Sì. Non è il personaggio che abbiamo scelto, però la ringraziamo di averci chiamato e le auguriamo un'ottima domenica. Grazie Anna Bruna, ci poteva stare. Sergio da Lodi. Sergio, mi sa che è in attesa da un po', quindi forse adesso si è stufato. Sergio? Non è neanche più da Lodi. Pronto? È arrivato a Milano nel frattempo. Sergio, buongiorno. Sono arrivato a Novara. Perfetto, allora Sergio da Novara. Ok, allora no, chiamavo per il tema principale della trasmissione. Sì. Mia moglie è intollerante, allergica al lattosio e devo dire ormai da diversi anni ci siamo attrezzati. In che modo? In che modo? Intanto mangiare una pizza è spesso difficile per una persona allergica al lattosio. E abbiamo c'è solo la marinara? Sì, bravissimo, ma anche nell'impasto ci possono essere delle tracce. Ah, allora, ecco. E quindi il problema sono le tracce, le contaminazioni, che possono comunque dare veramente dei problemi agli allergici soprattutto. E quindi ci siamo attrezzati, se uno deve andare in pizzeria, c'è una trattoria a pizzeria che noi lo sappiamo prima, e lui, devo dire, noi gli forniamo gli ingredienti senza lattosio che acquistiamo e noi possiamo mangiare una pizza regolarmente. Cioè gli ingredienti li acquistate voi e li portate voi in pizzeria? Sì, e il, devo dire, il ristoratore, visto che siamo una famiglia di quattro persone, la pizza di mia moglie io non la pago mai, quindi è sempre molto gentile. Cioè c'è un rapporto di super fiducia tale per cui insomma, si è instaurata questa cosa qua. Perché, diciamolo chiaro, ci sono le leggi, tutto quello che si vuole, ma come dicevano tutti prima, quindi per equilibrare un po' le diverse opinioni che ho ascoltato, il cliente è sempre al centro dell'interesse del piccolo e del grande ristoratore, quindi noi siamo diventati fedeli a questa pizzeria, non andiamo tutte le settimane, però quando vogliamo mangiare una buona pizza, tranquilli, che nessuno abbia delle conseguenze spiacevoli, noi... Però è una bellissima storia. Ci lascia un'idea anche su questa previsione, diciamo, di scrivere nei menu dettagliatamente le componenti allergeniche, oppure se può bastare, come diceva il rappresentante della Confcommercio, anche qui, semplicemente una esposizione orale degli ingredienti. Lei che ne pensa? Allora, io penso che gli ingredienti tranquillizzano anche chi si trova al ristorante. C'è anche una questione psicologica. Spesso la persona allergica, soprattutto adulta, è portata a nei primi tempi, quando lo scopre, a non è sicura. Ma gli ingredienti in chiaro aiuterebbero, perché la persona mangia più tranquilla, ha sempre la soggezione di sentirsi male, di avere un problema, quindi aiuta anche chi si siede al tavolo e vede gli ingredienti. Devo però dire che nella nostra esperienza, visto che questa diciamo la presenza degli ingredienti in alcuni ristoranti non chiarifica se ci sono contaminazioni eventuali, ad esempio spesso si vede quella dei crostacei, quella per i celiaci, tracce di lattosio qualcuno nell'ingrediente lo inizia a scrivere, quindi in quel caso lì si dirotta su un altro piatto che non abbia il lattosio, certo. Ma quindi, ci lasci anche il nome della pizzeria di Lodi dove ci si può portare gli ingredienti da casa per farsi fare una pizza? No. La pizzeria si chiama, sì vabbè, non vorrei, dai, dilla. Allora, la pizzeria si chiama Genovese 2. Perfetto, va bene, basta. Chi vuole intendere, intenda. Grazie Sergio, buona giornata, buona domenica. 800 24 00 24. Torniamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Quando un giudice punta il dito contro un povero fesso, nella mano stringe arte tre dita che indicano se stesso. A me arza un dito per essere diverso, me fa più fatica che sposta tutto l'universo. Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio, sto bene da solo. Il proverbio era sbagliato. So l'odore de tappo del vino che hanno rimannato indietro. So i galli sulle ginocchia di chi ha pregato tanto e non ha mai avuto. E ce l'ho fegato. Aia. So come il vento. Vado un dome va. Vado un dome va. Ma sto sempre qua. Il bar della rabbia di Alessandro Mannarino, che è in macchina, che sta arrivando a Milano, noi l'abbiamo intercettato ed è qua con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Non sono in macchina. Sono... Vieni in bici? No. Sono sulle patrie linee ferroviarie. Ah, ecco, infatti io. Che vanno sempre dritte. E arrivano sempre all'obiettivo. Ah, quindi già abbiamo una preferenza di Mannarino per andare in treno. Ma non è che tanto preferite queste ferrovie, purtroppo è l'unico modo più veloce. è sicuro, perché uno arriva all'obiettivo senza divagazioni. No, io già mi immaginavo il viaggio, anche il camper, no, il musicista, tutti lì insieme. Invece un treno è una cosa più tranquilla. Intanto grazie, perché intercettare comunque un artista, un cantante che la sera fa i concerti, e quindi insomma bisogna chiamare la mattina, è un po' un fuso orario diverso. Infatti dormivo. Grazie per essere con noi sveglio. Cioè, in realtà non sei tu, è un altro passeggero del treno che ha preso la chiamata. Probabilmente tu hai detto: senti, io dormo, chiameranno intorno alle 10:30. Fai l'accento romano e siamo a posto. Allora, il tour al Monte Live, che è partito insomma già da un po', stasera sarà a Milano, prossima data credo il 6 dicembre a Padova, se dico bene, forse. Sì. E, intanto la prima cosa che ci era piaciuta, adesso poi sentiremo anche un brano dell'ultimo disco, la cosa che ci aveva interessato, Alessandro, è questo sconto che tu fai ai disoccupati al tuo concerto, perché insomma si parla sempre di crisi, di, e anche ai minori di 10 anni. Sì, si parla sempre di questi problemi, però poi in effetti insomma, di soluzioni concrete, di proposte, anche di sconti nei musei, cosa che avviene regolarmente per esempio in altri paesi. Io ho un'esperienza in Francia in questo senso, insomma, non è che siano molti a farlo. Tu ci hai pensato, hai detto perché no, insomma, si può fare. Ma sì, in realtà è stata una cosa abbastanza semplice anche farla, è naturale. In questo momento in cui c'è difficoltà economica, più che difficoltà economica, anche difficoltà culturale, cioè d'accesso alla cultura. E è stato insomma un'idea. Ho ricevuto già molti messaggi, devo dire, da persone che in questo momento non hanno lavoro, che mi hanno ringraziato perché non sarebbero potute venire. Beh, questo è come... bello. Ma quindi non avete incontrato resistenze? Io pensavo i distributori che dicessero: oddio, adesso sì, questo qua vuole anche far fare lo sconto ai pensionati. Ah, no, quindi no, non è stato semplice. Diciamo, tu hai voluto, perché ti sei incaponito tu, sei riuscito a raggiungerla, sì. O sbaglio? Sì, è stato così, ma alla fine mi sono imposto, però devo dire che quando ci sono di mezzo i soldi sembra sempre che non è niente semplice, esatto. È impossibile, invece non è così, basta essere un po' più umani di quello che ci hanno fatto diventare dietro al denaro. Ma come le ferrovie, poi è la stessa cosa. Cioè? Uno va... è che non puoi divagare, vai dritto. Se hai un obiettivo, vai dritto, perché l'obiettivo. La società ci ha abituato, cioè la ferrovia che ti porta da A a B e ti ci fa arrivare, quindi puoi lavorare, puoi fare le tue cose, però a volte ragioniamo dritti e diretti e non contempliamo più la libertà di un pensiero che può... In questo caso le divagazioni del pensiero sarebbero utili, la bellezza invece, della divagazione. Invece di quelle del viaggio che ti deve portare a Milano. Di cosa parla questo spettacolo insomma che tu fai nei teatri e anche quest'ultimo disco al Monte? Parla della ricerca di un cammino diverso rispetto a quello della ferrovia. Mo mi sono fissato sulla ferrovia. Adesso lo devi portare avanti fino alla fine dell'intervista. Se venivi in aereo non funzionava niente di questa intervista. No, era finita. Pure perché in aereo poi accende il cellulare. È certo, giusto. Si poteva fare. No, in pratica è questo. È una storia, diciamo, ecco, che già affronto nel disco Al Monte. In questo concerto l'ho messa in scena. La storia di questi personaggi, questo uomo, una donna che cercano un'area libera, un'area, un posto libero, un luogo libero in cui trovare un nuovo pensiero, un nuovo punto di vista, da cui avere un punto di vista al di fuori della città, della società, dell'impalcatura sociale, e in cui cercare un nuovo pensiero e realizzare anche una nuova forma d'umanità, ecco. Detto perché così sembra complicatissimo. No, no, è molto semplice, basta volesse bene. Detto così è molto bello e poetico. Posso dire una cosa? Basta ascoltare le canzoni di Mannarino e capire che poi tutto viene tradotto, perché lui adesso ci sta cercando di spiegare con parole, diciamo, generali, astratte o addirittura filosofiche. Le sue canzoni invece sono molto vere, ricche di storie. Sì, e molto immediate. Io sono un grande suo ammiratore, quindi ci si medesima. Guarda, sono anche un po' emozionato a parlare, quindi confesso. Il fatto è questo, è che uso dei personaggi per raccontare delle storie che vanno avanti da sole, non c'è bisogno di spiegare poi quello che c'è dietro, però ogni storia è ogni personaggio. Sei in una galleria? Oddio, che è successo? Forse il treno ha preso una deviazione, quantomeno. Se, tra l'altro, sei a Roma-Milano, diciamo, sei nel pezzo su Firenze, è impossibile. Sì, ci potrebbero essere delle gallerie, chissà a che punto è. Ma è stato un po' troppo. Aspetta, repentino. Ce l'abbiamo? No, è caduto. Allora, aspetta un po' se Lucia Tolve riesce a recuperarlo. Sì. Comunque, un mio caro amico, che è un grandissimo fan di Mannarino, mi ha detto: questo è un poeta vero, quindi non fargli domande personali. E io concordo con questa teoria. Ah, pensavo non fargli domande stupide. Perché no, vabbè, domande stupide, certo. No, no, però la questione delle domande personali, siccome a Mannarino fanno spessissimo tutte le domande sulla sua vita personale, sono molto d'accordo che noi non faremo domande personali. Allora, in attesa di sperare di vedere se si recupera il collegamento dal treno dove si trova Mannarino, che è in direzione Milano, facciamo adesso vado sul sito delle ferrovie e cerco di beccare dove è il treno. Facciamo un ascoltatore. Cristina da Milano, buongiorno. No. Buongiorno Cristina. Buongiorno, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Non sei in treno, quindi, evidentemente. No, sono in macchina. Ah. Su una comodissima car sharing. Perfetto. E volevo partecipare al gioco per dare una risposta. Certo. Al personaggio misterioso, secondo me è Robert De Niro. Benissimo, un sex symbol ovviamente. Perché? Qual è la notizia? Pronto? Pronto? Sì, non la sentiamo più. Cristina, qual è la notizia? Dici qual è la notizia legata a Robert De Niro. So che deve uscire una biografia su di lui. Ah. E parla di un periodo in cui, o della sua capacità di fingere, della sua capacità di saper fingere. Ok. Beh, insomma, quindi saremo in pieno anche primo indizio, ma non era lui, non avevamo pensato. A parte che invece di De Niro mi sa che una notizia molto buona che c'è è il fatto che lui vuole occuparsi di suo padre, che è Robert Senior, che era un pittore. È una bella storia anche quella. Incompreso, insomma. Ce ne occuperemo nel prossimo personaggio, forse. Esatto. Abbiamo recuperato Alessandro Mannarino, chissà per quanto. Ciao, di nuovo. Ciao. Eccoti qua. Ciao. Sei uscito da... Io volevo richiamare, ma non c'ho il numero. ci pensiamo noi. Alessandro, stavamo parlando un po' anche del tuo modo di raccontare le storie. Naturalmente un musicista che scrive canzoni è un momento di leggerezza, anche si va a uno spettacolo anche per passare un'ora o due tranquillamente. Però tu sei un cantante impegnato, si può usare questa parola? Credo di sì. Impegnato perché mi impegno a fare cose bene, diciamo. Ma diciamo anche perché affronti degli argomenti che a volte altri cantanti trascurano, un po' sul solco dei vecchi cantautori che non hanno moltissimi eredi. Prima di tutto ti voglio chiedere se ti ritrovi in questa descrizione o no. Dici questa cosa è molto triste, perché i nuovi cantautori non c'hanno idee, non c'hanno... No, ho detto che non ci sono moltissimi. No, non parlavo di qualità, tutt'altro. Parlavo di quantità, forse, di eredi. Perché veniamo da una storia italiana piena di cantautori. Adesso forse ce ne sono di meno. Prima di tutto ti chiedo se tu ti identifichi un po' in questa cosa o no. No, aspetta. Stai sperando in un'altra galleria per non rispondere. L'abbiamo perso di nuovo? Infatti. Ci sono. Corri in senso contrario a quello dell'andatura se arriva una galleria. Vai. Allora, quelle canzoni che ho fatto finora sono delle canzoni che fanno passare il tempo, uno le ascolta e funzionano. Funzionano musicalmente, ci sono questi personaggi, li segui, ma ogni personaggio nasconde una storia, un po' come una carta dei tarocchi, c'ha un significato, e questi significati vengono dalle idee, dalla ricerca personale perché io personalmente faccio la mia vita. Mi sentite? Sì, sì, certo, sì, che sì. Ti sentiamo. Siamo i punti più importanti sono quelli, insomma, questi, l'indagine, diciamo, il pensiero riguardo a cose e a situazioni, a modi di pensare che sembrano normali, sembrano umani e magari umani non sono, sono solamente frutto della cultura in cui viviamo. Quindi l'alienazione religiosa, la giustizia, lo Stato, la bandiera, cerco anche per esempio, ecco, in questo spettacolo, nell'ultimo album, cerco una via di fuga, un territorio libero. Questo territorio libero è nel rapporto interumano, nella irrazionalità. Insomma, cerchi di raccontare storie, poi se gli altri vogliono pensare che sei un cantautore impegnato oppure no, problemi loro. Questo io mi sembra giusto. Voglio dire che le canzoni di Mannarino sono bellissime, sì. Perché uno magari sente e si spaventa di una certa complessità. Ma è bello che ci sia anche la complessità, ma è anche che sono francamente bellissime. Facciamo così, lasciamo lo spazio alla musica, sentiamo una canzone del nuovo album, a me piace molto, Malamor, e lasciamo Alessandro al suo viaggio verso Milano stasera in concerto. Dove? Ma è pure imbruttito un signore qua del treno, avevo chiuso la porta per... meglio che vado seduto, che se no. Bravo. Dici no, dove sei? Dici dove sei stasera, stasera il concerto? Non lo so, sto tra Firenze e Milano, credo. No, no, dov'è stasera il concerto? All'Arcimboldi. All'Arcimboldi, fantastico, un posto tra l'altro nobile, diciamo così, per quanto riguarda la piazza milanese. Grazie Alessandro Mannarino, buona serata, buon concerto e buon viaggio. E buon viaggio soprattutto. Grazie per essere stato con noi. Sentiamo due note veloci di Malamor. Qui si nasce senza fiato, è già la prima punizione. Uno schiaffo sopra il culo per la respirazione. Mi diederò a mia madre unghie lunghe di ragazza. Mi riempì di cicatrici carezzandomi la faccia. Malamor, malamor, malamor, malamor. Alla scuola elementare c'era un muro e una ringhiera. Ci misero sugli occhi una benda di bandiera. Così da non vedere, trascinando la catena, da che parte ci arrivavano i bastoni sulla schiena. Malamor, malamor, malamor. Andiamo al traffico, torniamo tra un attimo per l'ultimo pezzettino di programma, l'ultimo spicchio. Dobbiamo assegnare anche i biglietti per la mostra di Chagall e dobbiamo anche sentire tra poco Federico Taddia con i suoi le notizie sul crowdfunding. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, veloci con un ascoltatore ancora, Dario dalla provincia di Pisa. Buongiorno, Dario. Oh. Buongiorno. Pronto? Prego. Ciao, buongiorno. Per cosa chiamavi? Da Cascina, provincia di Pisa. Per che cosa? Ottimo, da Pisa? Per il gioco. Ah, sì. dici. Allora, sparo lì in Chirurg. Sex symbol, ora non voglio essere offensivo per il povero Michi, magari qualche anno fa. Sì, sì, giusto. E qual è la notizia? Perché gli hanno organizzato un incontro di box in Russia, ci si ricollega alla Russia. Perfetto. Di nuovo. E ha vinto, niente di strano se non il fatto che il suo avversario ha vinto. E se stai sentendo i nostri applausi vuol dire che hai indovinato in zona Cesarini. Dobbiamo salutarti velocemente perché dobbiamo ancora parlare con il nostro Federico Taddia. Grazie, vinci i biglietti per il catalogo, la mostra di Chagall. Adesso crowdfunding, vai. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no, no. Ciao Federico, buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Siamo buongiorno. Un po' di corsa perché abbiamo avuto dei problemi con Mannarino che era in treno. La prima cosa è per un cellulare nuovo per Mannarino. Esatto, facciamo crowdfunding per questo. Vai Fede. Allora, no, magari ve ne seleziono solo una che però è importante, perché questa settimana l'Università di Pavia ha lanciato la prima operazione di crowdfunding all'interno di un ateneo italiano per finanziare la ricerca. L'obiettivo è quello di raccogliere in 2 mesi 130.000 euro per 4 progetti selezionati tra i 68 candidature. Il rettore ha proprio chiesto: ricercatori, avete dei progetti belli, mandateli, una commissione li ha selezionati, ne sono stati scelti 4 per ora e sono stati messi su questa piattaforma universitiamo.eu, chiedendo ai cittadini di partecipare con delle donazioni. 4 progetti: il primo, tubercolosi, un killer riemergente, un'attività di ricerca per trovare una nuova medicina contro la tubercolosi. Dexpotec, servono fondi per l'acquisto di un drone per monitorare la condizione ambientale del cielo. Lotta all'ultimo sangue contro la zanzara tigre e tuteliamoci dalle pratiche responsabili di marketing. Questi sono i quattro progetti. Cose molto diverse tra loro, però tutte molto stimolanti. Molto stimolanti. In cambio, cosa c'è? In cambio il tuo nome viene inserito nell'elenco dei partecipanti alla ricerca quando verranno pubblicati i dati. Giusto, perché ricordiamo che ogni volta, Fede, c'è questo meccanismo della ricompensa. Questo. C'è una ricompensa simbolica a volte, ma anche no, insomma. Esatto. Se c'è 30 secondi ve la lancio anche una seconda, perché questa è molto bella la ricompensa. Stiamo parlando del Reboot Race 2015. Che cos'è? Una regata che si tiene a Roma ogni settembre tra imbarcazioni ecologiche autoricostruite, e c'è una scuola ed è il liceo artistico Rossi di Roma che ha lanciato questa attività di crowdfunding per realizzare la loro Sunrise One, che sarebbe appunto un'imbarcazione costruita solo con materiale di riciclo e a propulsione ecologica. Anche qui la possibilità di offrire delle cifre, in cambio c'è la possibilità di essere il passeggero principe su una di queste imbarcazioni. Vabbè, bellissimo. Benissimo, grazie Fede, ci sentiamo domenica prossima. Tutte le segnalazioni crowdfunding le trovate sulla pagina, si può fare sul sito di Radio 24. Grazie a tutti, Andrea Piana, autore insieme a me di questo programma, Giorgio De Luca, Lucia Tolve redazione, Filippo Reggi regia, chi più ne ha più ne metta. Carlo. Certo. Ciao, buona domenica. Sabato prossimo, da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao. Ciao.